cielo della mia mente. Tu sei via, non è più questo il problema, sei svanita. E resta cenere, tu bruci e resta cenere. E resta cenere, tu bruci e resta cenere. Troppo complicato questa lotta tra dolore e orgoglio che mi ha lacerato, ma io sono ancora.